Allora, siamo qui alla quarta puntata di questa cosa che si chiama eco filosofica, cioè cerchiamo di dare un eco intorno a delle parole. Abbiamo cominciato con la porta, abbiamo proseguito con la ruota, l'altra volta grande successo col frigorifero. Oggi torniamo più aulici e parliamo della stella e vediamo che cosa succede. Io volevo darvi delle piccole suggestioni. Me le do anche a me stesso, insomma, dandole a voi, ovviamente. Stella, i primi input potrebbero essere, spesso mi rivolgo, soprattutto stella è una parola importante, no? Una parola, sì, che ha, insomma, indica degli esseri che stanno nell'universo, che come noi, magnano, scaldano e muoiono pure, no? Tutte le parole legate alle vite delle stelle sono molto vicine al nostro corpo. Ci sono le stelle degeneri, ci sono le stelle nane, ci sono le stelle giganti, rosse, bianche, cioè è come parlare di animali, di Collassano. persone, collassano, muoiono, vivono, eccetera. Nascono. E la cosa interessante di oggi è che, Esplodono e implodono. tra l'altro, sì, È pazzesco. l'ho intitolata Le stelle come in cielo, così in terra, perché comunque. Sì, questi affari, queste cose che stanno lassù, però sono anche qua giù le stelle e mi è venuto in mente quando ho preso un cacciavite, questa ha la punta a forma di stella, no? Quindi le stelle ce le abbiamo anche addosso, non sono proprio, no? Ci sono addirittura degli angiomi sulla pelle che sono a forma di stella, dicono. Angioma stellato lo Sì. chiamano. Addirittura, quindi ce le possiamo avere proprio sul corpo, no? Le stelle. Anche nel ghiaccio sono stati visti delle cose a forma di stelle, dei cristalli, Ah no? sì? Tu che intendi di freddo, dovresti saperlo. Poi c'è Frank Amante Stella. del freddo. Tra l'altro è anche un nome, volendo. No, la prima suggestione è quella etimologica, diciamo, chiedersi, no, queste parole da dove saltano fuori. C'è questo termine stella che, vabbè, è italiano, però sono tanti millenni che che questa radice, no, stella. Quindi sembrerebbe che. Ovviamente l'etimologia è un'altra scienza inesatta, quindi non si sa mai bene, però è molto creativa e dà comunque delle suggestioni su questa parola, che cosa possa essere, perché l'uomo ha coniato questa parola, poi qui nell'Occidente è diventata stella, ma in altre culture si chiamerà in un altro modo. Dunque le etimologie più importanti, diciamo, sono che stella derivi da un termine che significa sparsa. Cioè un qualcosa che è sparpagliato, no? Qua e là, come le vediamo su in cielo, sono dei puntini, no? Buttati un po' lì, no? Poi la nostra fantasia li può collegare in forme, ma sono. Quindi. Come nell'astrologia. Esatto, per esempio. Quindi l'essere sparso sembrerebbe appartenere a questa questo termine stella. Poi un'altra etimologia altrettanto famosa, diciamo, è che questo termine ha qualcosa dentro che indica che è irradiante. Cioè, stella è qualcosa che da un punto propaga intorno a sé. Forse infatti, per quello che viene rappresentata spesso a punte, chiaramente. Certo. Quindi un centro con queste espansioni. Le punte simboleggiano l'espansione in tutte le direzioni, no? Certo. Intanto c'è da dire una cosa, che se noi siamo vivi e siamo qui è grazie a una stella, che è il sole, perché il sole. Se il sole domani non esce, ho detto così, se mi passate la frase. È giusto. In poche ore, si calcola 72 o poco più, andiamo sotto zero, ma tipo 200 sotto zero. 200, come in vari 200, pianeti ovviamente. 270 gradi sotto zero è il massimo della fisica raggiungibile. Certo. Sì, mentre per le temperature alte non c'è ancora un limite, sono milioni di gradi, mentre per il freddo andremo in 3 giorni a meno 2,70, quindi morirebbe qualsiasi forma di vita. Sì, poi tra l'altro ci sono alcune definizioni per cui per esempio Giove viene chiamato una stella mancata, cioè una stella che era partita ma poi non si è sviluppata, quindi è rimasta un pianeta. Un pianeta in fondo è un frammento di stella raffreddato, è come se una punta di una stella si fosse staccata, no? E poi si fosse comunque raffreddata, ma del resto anche il pianeta, pur non avendo un organismo stellare, nel senso che non ha delle reazioni, no? Non emana luce, però è comunque a minore gradi, il funzionamento è un po' quello di una stella, cioè un nucleo caldo, e quindi anche un pianeta su cui stiamo, insomma, è una forma, una piccola stella alla fine. No? Sì, dentro è ancora accesa. Stella. Sì. Dentro, e irradia tra loro. Next stella, diciamo, ancora come la brace ancora sotto la, no? Ancora accesa. Esatto. Com'è che si dice? Di una persona, una bronza coerta. Bronza quarta. Che sarebbe quando nel camino c'hai la brace coperta dalla cenere, no? Tu non vedi il rosso della brace, ne fumo niente. Però se sposti la cenere, la bronza, che è la brace, no? Riparte, no? Quindi la bronza, la brace coperta, no? Allora chi è una bronza coerta? Una persona che fa finta di essere, no, 30 posti sotto esplosivo. C'è un disgraziato che combina di sotto esplosivo. Ma poi c'è una grande virtù nascosta che non mostra. Sì, anche il nostro pianeta rispetta queste etimologie, perché è sparso in giro per l'universo, ed è anche radiante, perché irradia calore, irradia campi magnetici, irradia delle cose, no? Quindi la terza, diciamo, etimologia che sembra la più gettonata adesso è quella che dice che la stella deriva da un termine che intende ardere, che significa ardere, e quindi siamo qui in perfetta, cioè ci sembra molto normale, insomma una stella è qualcosa di luminoso, ardente, no? Sono dei tizzoni ardenti sbattuti nello spazio, insomma, noi ci paiono come delle fiammelle, no? Mi dicono, insomma, dei puntini luminosi, quindi l'ardere è della stella e le appartiene, insomma, no? No, stavo pensando alle stelle quando si dice di una donna, no? Queste donne famose, grande carisma e bellezza, che hanno magari anche distrutto qualche uomo per amore, no? E anche le stelle. Sicuramente è un complimento anche della stella a qualcuno. Beh, analogamente a una stella, se ti avvicini, ma prima di bruciarti muori di radiazioni, perché il sole emana delle radiazioni che ucciderebbero ogni forma di vita sulla Terra se non avessimo l'atmosfera che le devia in qualche modo. E certo. Beh, infatti su Mercurio è fortemente radioattiva la stella, quindi anche queste donne radioattive sono anche da tenere a bada, insomma, starci attenti, no? Tutta l'atmosfera. Bisogna creare la giusta atmosfera. La giusta atmosfera, difensiva, una specie di scudo. Eh sì, e se no perdi la testa, no? Cioè, rompa gli amici. Ci sono anche, vale anche per il maschile questo, no? Nel senso che, visto che hai parlato di stelle, quindi legate a Hollywood, sì, vale anche per il maschile, anche, cioè. Vale anche per il maschile, eh sì. Adesso non facciamo i rockstar, sì, appunto. Rockstar. Quindi forse lì anche lì, no? Allora, il femminile deve crearsi un'atmosfera i capelli, intorno, sì, certo. Difensiva, no? E appunto se no strappi i capelli, eh sì. Ah, urla, follia, follia. Persino adesso si parla dello star system, no? Di questi super personaggi in tutti i campi. Va dappertutto il system, purtroppo. Nelle star, in tutti i campi, e, appunto, creando il business, uccide tutto quello che c'è di creativo, facendone delle regole, no? Eh sì, certo. System, esatto. Che noi stessi, a questi puntini sparsi nel cielo, diamo dei system, li appiccichiamo addosso dicendo, creando le costellazioni, per esempio, che sono, infatti li chiamano i sistemi stellari, no? Quindi questi puntini magari non c'entrano niente uno con l'altro in realtà, però noi... magari sono distanti, cioè da un punto di vista del piano, no? Sono uno lontanissimo, uno vicino, così, però noi riuniamo come nella settimana enigmistica, unisci i puntini, esatto. E quindi ci vediamo cigni. Beh, diciamo che i primi sono stati gli egiziani a fare unisci i puntini, sì. Dove hanno rappresentato in terra quello che vedevano in cielo, certo, sì, è questo, è già da parecchio tempo. Quindi una cosa sparsa, una cosa che arde. Quindi addirittura queste stelle influenzerebbero la vita e le azioni umane, i destini anche, secondo la disposizione, secondo l'astrologia. Eh sì. Beh, è molto nota e suggestiva l'etimologia del termine desiderio, no? Dunque, perché sarebbe desidera, cioè il venire giù dalle stelle, no? Sidera o delle stelle in latino, quindi il desiderio non è altro che un influsso che ti viene dall'alto, cioè infatti il de vuol dire proprio dall'alto in basso, no? Sì. E quindi dalla stella cala giù ti viene questo grillo per la testa che è il desiderio, no? Quindi anche qui il desiderio è qualcosa che ci viene dalle stelle, è la radiazione di cui dicevamo, no? Esatto. Che ci viene dall'alto, c'è chi le interpreta, perché dice che quando tu nasci sotto quella stella lì, hai di default magari alcuni desideri, no? Che ti son dentro perché sei nato sotto quella stella lì, che ha quell'influsso lì, no? È interessante, no? Perché nato sotto la buona stella, infatti, sì. O una cattiva stella. Comunque vengono chiamate in causa spesso, ecco, diciamo. Certo. Beh, desiderare, no? Forse è la cosa... Che però non ci si pensa, no? Che sia legato alle stelle, in effetti, invece l'etimologia... Perché distingue anche l'uomo dagli animali, perché l'animale non è che desidera, soddisfa degli istinti primari, come la fame, il sonno, eccetera. Invece l'uomo, appunto, diversamente, vuole altre cose, desidera altre cose. Certo. No, il desiderio poi è una cosa molto... Per esempio... si dice che nei supermercati, no? Quando tu vai a comprare, che ne so, vuoi una un'aranciata, no. Sì, vuoi un'aranciata, no? Si dice che in realtà il supermercato è un luogo che impedisce e inibisce il desiderio. Ma perché? Perché di aranciate il supermercato te ne dà 10 varietà. Mm-hmm. Il classico atto desiderante è volere l'undicesima, cioè quella che non c'è. Questo è il vero desiderio, cioè il desiderio si appoggia a delle cose che non ci sono già in realtà, perché sennò è una semplice scelta, no? Cioè dico, esatto. Scegli tra questo e questo, e no, io desidero quell'altro, il quarto elemento, no? E anche questo è molto legato, secondo me, alla stella. Voi pensate che le stelle che noi vediamo probabilmente sono anche morte, cioè queste luci, sì, che noi vediamo in alto, può darsi che corrispondano a dei corpi celesti ormai morti, sì, da... La luce però sta ancora arrivando. Esatto, quindi questo desiderio non si appoggia più a un ente reale, diciamo, alla sua fonte, non c'è più la sua fonte che lo sostiene, però viaggia nello spazio e ci influenza, no? E ci fa desiderare, ci fa volere cose che non esistono, per esempio, che non... un bel mistero, insomma, la stella. Sì. Che scientificamente non è che si è provato ancora che influenza l'animo umano. Sì, è vero. Però qualcosa di vero ci deve essere. Si sembra quasi che... quantomeno c'è il legame. E più di tanto non possono nemmeno essere studiate perché è impossibile avvicinarsi. Passi dalla metafisica. Sì, è vero. Qui ci vorrebbe l'astrologo che forse ci dice no, perché qualche astrologo lo ricorda e dicono no, però in effetti quelli che nascono in luglio hanno dei caratteri che... c'è certa gente che riconosce proprio, no? Luglio, però dopo ti specificano prima, secondo, certo, la decade, per l'influenza delle stelle, dei periodi. No, conoscevo delle persone che fanno due parole con te, ti dicono già che segno sei e lo sa, e di solito ci prendono certo, pure. Certo, chi è appassionato d'astrologia, sì, chiaro. Quindi può darsi che loro potrebbero in qualche modo mostrarci che... Abbiamo un'amica appassionata d'astrologia comune che si chiama Sole di cognome, guarda caso, che è appassionata di astrologia, Roberta. Sì, se l'avessi ricordato l'avrei chiamata. Ah, vedi? L'avrei telefonato per dire. Tanto che li sento. Sì, io non conoscevo nessuna persona. Adesso che me lo dici, mi ricordo. Stella. Hai più sentito Francesco? Chi è Francesco? Paraghi. No. Sarebbe il compagno di questa signora, di questa tipa. Ah. Ultimamente sono state scoperte delle stelle gemelle, mi sembra, che emettono della luce pulsante, perché in pratica girano una con l'altra. Sì. Vedi, gemelle. Sì, binarie, sì, ci sono varie. Si ruotano in un eccentrico, no? Continuano. Sì, in realtà una rotazione eccentrica. Due stelle che ruotano su stesso. Tra loro. Che poi succede un casino perché raggiungono una tale velocità che. Sì, sì. Se ti dice bene, si è si spogliano. Beh, questo è il mistero della materia dell'universo, comunque, che ancora è sconosciuta. E secondo me le stelle fanno parte del 90% che ancora non conosciamo. C'è questa materia scura che ci circonda, esatto, ci contiene, però che non conosciamo. Sì, che emana questi bagliori che noi chiamiamo stelle, però certamente fanno parte di una massa di materia di cui noi non sappiamo. Un complesso, sì, sicuramente, che ci sfugge. Eh sì. Forse è proprio per quello che ci piacciono, no? Beh, è affascinante questo mondo. Poi le stelle che non emettono più luce, perché la gravità è così forte che non escono neanche i fotoni, riescono a essere più irradiati. Le chiamano buco nero. Il buco nero. Buco nero, sì. Sì. Non lascia uscire niente. Quindi sarebbe una stella al contrario, secondo le nostre sì, premesse. Dove c'è una stella ci sarà sicuramente un buco nero da un'altra parte. Sì. Una stella che succhia, invece di donare, si prende, insomma, il buco nero. Una cosa. Ma tra l'altro è così forte la gravità che non ti puoi, ovviamente qualsiasi cosa viene inglobata, perché è attirata sì. dalla sua gravità. Sì, anche certo. La mitologia l'ha disturbati perché con Elio, insomma, il dio del sole, ci hanno avuto a che fare parecchio, che poi è stato disturbato talmente tanto che gli hanno fatto cadere il carro, e quindi anche lì, insomma, c'ha parecchi ambiti la stella, viene spesso chiamata in causa veramente. Eh sì, no, poi notavo, no, scrivendo anche la frase lì che veramente è un simbolo che c'è dappertutto, sia anche in araldica, stelle a 5, 6, 7, vogliono dire sempre delle è un simbolo, no, che i militari che se le piazzano sulle spalle, sceriffo, no? Sceriffo. Stella dello sceriffo. Pure sul dollaro, se non sbaglio, c'è una stella, no? Sì, diventa un simbolo, un simbolo, no? Di bene, perché per caso. C'è la bandiera americana. La bandiera americana 52. Strip and Star, strips and stars. Sì. Sì. Stelle e strisce. Ma che nella cultura della demonologia c'è una stella che è a 5 punte. La punta da sole è a sud, poi ce n'è una a destra e una a sinistra, e due in alto divergenti. In questa stella si inscrive il volto di Satana. Ah. e le punte divergenti si sono iscritte alle corna, le orecchie a est e ovest e la barba lunga nella punta sud, e quella è la stella satanica che è girata rispetto a quella giù, a quella sì, benefica, che quella dritta scrive il capro, il capro satanico, che quella dritta invece dicono sia un po' l'immagine dell'uomo, no? Con le due punte divergenti in basso, che sarebbero, esatto, le gambe, le due braccia laterali, esatto, come l'uomo del leonardesco, esatto, e la punta in su è la testa, no? Esatto, quella sarebbe la stella dritta. No, invece questa cosa di, vabbè, perché in realtà il buco nero è una cosa abbastanza moderna, insomma, non, probabilmente nell'antichità era presente, però appunto non viene rappresentato, non esiste una rappresentazione del contrario della, cioè o meglio della di questa stella che, come hai detto tu, che prende, che dare prende, no? Non ce l'ha, è come se la, vabbè, anzi, nel momento stesso in cui diciamo che la conosciamo, diciamo anche che non conosciamo niente di questa realtà, no? Perché veramente non l'abbiamo ipotizzato. E non la rappresentiamo neanche, non mi risulta che ci siano rappresentazioni del buco nero. Perché è troppo recente. Forse è troppo recente. È il mondo che esiste. Sì, boh, in tutti i sensi. Cioè, boh, non è ancora stata, no? È qualche decennio che Satana, ma il buco nero, cioè ma la perché, stella, perché, ma perché il mondo è un mistero che è inimmaginabile, no, ma perché il mondo che è cambiato, sì, forse è troppo giovane come teoria, ma anche noi siamo troppo vecchi rispetto ai nostri antenati che erano più, avevano una, come dire, un carattere più metafisico, e oggi non siamo molto lì, oggi sì, non inventiamo nulla di mitologico. E il mondo è cambiato, è più tecnologico. Che a me mi ha affascinato questa cosa, che abbiamo detto della cioè, mi sembra un concetto molto da approfondire, quello del buco nero. Porca miseria, molto interessante, no? Cioè, l'antagonista della stella, il buco nero. Se fosse stato scoperto qualche migliaio di anni fa, avremmo una mitologia anche sul buco nero. È una stella. Perché dici che è una stella? Perché è, diciamo, se c'è il buco nero, no? E così, se c'è la stella, c'è il buco nero. È il suo opposto, diciamo, come è il suo contrario. Il suo contrario proprio. La stella esiste perché esiste il buco nero. Questo sì è vero, però sì, non puoi dire che sono uguali. No, uguali nel senso, beh, come dico che il bianco è uguale al nero, nel senso che sì, opposti, diciamo, complementari. Complementari, ecco. Hanno la stessa importanza, ecco. Mentre non ha... Sei una stella, sei un buco nero. Cioè, non siamo riusciti. Sei un buco nero. Cioè, abbiamo mitizzato la stella. Addirittura al nostro desiderio è legato alla stella. No, ma nel senso che addirittura il nostro desiderio è legato alla stella, desiderare, no? E quando invece la realtà è molto più vicina al buco nero che alla stella. Per quanto, cioè, se vogliamo fare un'analisi della nostra realtà terrena, sei un pessimista. I desideri proprio. Non è vero. Beh, diciamo che fa fatica. Ne parliamo molto, no? Del fatto di e prenditi cura di te, dei tuoi desideri, no? Ecco, no? Quando invece dovresti prenderti cura anche dei tuoi buchi neri, diciamo. O quasi istintivamente ci viene più facile prenderci cura dei nostri buchi neri che dei nostri desideri. Io questo stavo dicendo, no? Ecco. Per cui quasi varrebbe la pena mitizzare il buco nero e rappresentarlo. Ma io penso che per parlarne è abbastanza immediato la deduzione che si può fare. Se vogliamo antropomorfizzare le stelle, la persona che irradia energia, umanità, positività è naturalmente una stella. Certo. Poi ci sono anche le persone vampiro, quelle che ti tolgono l'energia, ecco, che sono, oppure chi è un po' depresso, non c'ha quella l'aura, no? Esatto. In quella condizione in cui si trova si potrebbe paragonare a una stella mancata, un buco nero. Sì. Che non irradia più, ma prende invece. Esatto, non lascia niente. Sì. Forse è insito nella parola buco nero un minimo di iconografia, cioè, perché io sono sicuro che se io avessi 10 bambini gli dico, gli do dei fogli, gli dico disegnate un buco nero, io quasi sono abbastanza sicuro che la maggior parte di loro disegnerebbe un cerchio nero in mezzo al foglio, probabilmente. Ma magari non un cerchio, ma comunque una massa. È quello che i telescopi mostrano, è proprio un cerchio nero. Ah, vedi? Nero, sì, sì. Ah, ecco. Un gorgo, no? Quindi un qualche un gorgo, vuoto, è una sfera a due dimensioni, quindi una circonferenza completamente nera. E se io provassi a fare l'inverso, invece di disegnare la stella classica, no, le punte, disegnassi una circonferenza e disegnassi delle punte all'indentro, potrebbe essere il contrario della stella, per esempio. Un nero potrebbe essere. Un ripartimento grafico. C'è qualcosa che non all'interno? Esatto. All'interno, magari vanno in profondità. Esatto. Però dovrebbe essere talmente scuro che le punte poi si confonderebbero, diventerebbe la massa scura nera, cerchio nero dei bambini. Esatto. È rappresentato bene anche lui. Sì. In effetti le stelle vengono sempre nei giocattoli, io mi ricordo da bambino, io avevo un sacco di stelle come giocattoli, mi saltavano fuori un po' in tante sorte, no? C'erano addirittura delle costruzioni fatte a stella, erano delle stelle che le incrociavi, no? Facevi le moto, facevi... Anzi, di plastica. Di plastica. Che si incastravano. Ti ricordi? Sì, sì, è vero. E mi ricordo che anche nei miei giocattoli saltavano spesso fuori stelle di tutti i colori, verdi, rosse, gialle. Quindi una grande varietà coloristica, la stella nera era più difficile, per esempio, no? Non c'era proprio. Quindi la stella, il nostro concetto di stella è colorato, è qualcosa che irradia. Eh sì, è certo. La stella nera è il buco nero. Eh sì. Quindi no, mi chiedevo, io chiedo, cerco sempre anche di, adesso abbiamo parlato di cose molto importanti, come ce le troviamo invece addosso? Allora, io avevo fatto le stelle, no? Perché questa forma, adesso questa forma poi ci ritorna in oggetti quotidiani come il cacciavite, alcune chiavi, alcuni animali addirittura sono stati chiamati stelle marine, no? Anche se hanno dei nomi anche più scientifici. Quindi questa forma, in realtà noi poi la applichiamo anche a tutti i nostri oggetti. Ma in realtà è la natura che praticamente utilizza la forma pentagonale, diciamo, per poi procrearsi e svilupparsi in tutte le direzioni. Ah, ecco. La proporzione che c'è nel pentagono praticamente è quella poi aurea che permette alla natura di sviluppare la posizione delle foglie sulle piante, piuttosto che la marijuana era, no? Non era quella la foglia. La foglia di marijuana è a stella, no? Sì. Anche se non sono tutte uguali. Probabilmente sono 5 fra l'altro. Sì, credo di sì. Non sono le dimensioni. Ma non ho studiato questa cosa. Dovremmo andare a verificare. La pianta dove? Sì, quindi dici un principio costruttivo della natura anche. Sì, sì, secondo me sì. I cristalli di ghiaccio praticamente sono a forma appunto di pentagono, che poi è la forma di una perfezione assoluta. Sì. Quindi non siamo noi che ci abbiamo, che possediamo la stella, ma è la stella che ci possiede. Che ci possiede, comunque che ci. Che ci sostiene piuttosto che ci sviluppa. Sì. Cosa fa parte del Dio natura? Poi chiaramente abbiamo la pastina che è a forma di stella, ce la mangiamo. Le ci venga proprio. Insomma, noi copiamo tutto dalla natura. No. Con la matriciana di stelline. Più da malati. Biscotti, sì, certo. Una bomboniera una volta, mi diede. Vabbè, il mulino bianco fa incetta di stelle, no? Sì, sì, sì. Tutto è stella, biscotti a stella, le stelline bianche su di zucchero. Insomma, io credo che nell'iconografia dell'infanzia tre forse sono le figure più... oltre alla casa, diciamo, la figura della casa sono il fiore, il cuore, la stella, no? Sì. Le tre proprio figure più fondamentali, sì. Sì, così più, più usate, no? Dai bambini, no? Appunto la stella, appunto, no? Il cuore, no? E il fiore, no? La margherita, no? I petali, no? Se le andiamo a ricercare in arte, mi vengono subito in mente quelle di Van Gogh. I campi di girasole, i paesaggi di Van Gogh con le sue stelle particolari, solo lui faceva così. Girasole molto stellati, sì. Ah, il girasole diventa quasi una forma stellare. Ce ne saranno migliaia. Anche se saranno. C'è anche un notturno di Van Gogh col cielo stellare, sì, con le stelline, col caffè sotto. In Francia, dalle parti non di Arles, ma era una marina, se non sbaglio, non mi ricordo dove, però... Ovviamente poi se ci stanno le stelle è chiaro che di notte in genere quasi sempre non hai il sole, è più di... ecco, quello più famoso è una marina, se non mi ricordo male. Anche pittori precedenti, più vecchi, dei secoli prima. Sì, ma questa è stata soltanto la prima immagine che mi è venuta in mente. Sì, sì, certo. Ma se andiamo a cercare l'iconografia in arte delle stelle, voglia girare, penso che sia infinito il campo. Oh, non abbiamo ancora citato la stella cometa. Oh, ecco. Quella è un capitolo. Quella che indica la strada. Quella è un capitolo a parte. Che tra l'altro si chiamano stelle, ma tecnicamente non c'entrano niente con le stelle da un punto di vista. Assolutamente. Stella. Blocchi di ghiaccio che si subliminano, diciamo, nel passaggio vicino al sole. Prendono fuoco, no? Sì. E creano questa scia di gas. Diventano gas. Sì, scia, sì. Sono degli zombie stellari al contrario di caldo, di luce, non è altro che un meteorite, che è la stella cadente, no? Chiamata stella perché il biancore è simile alla stella, ma non è esattamente una stella, è una combustione. E infatti, mi sembra, quando studiavo così astronomia, non le chiamano stelle comete, ma semplicemente comete, è il termine giusto. Cioè l'averci aggiunto stella è un qualcosa... È una sola. Sì. Comunque, insomma, la combustione avviene sempre grazie a una stella. Certo. Quale combustione? La combustione di questa cometa. No, sono blocchi di ghiaccio che passano dallo stato solido allo stato... Ma quindi cos'è che le non è acceso, è un blocco di ghiaccio che passando vicino al sole quindi diventa praticamente polvere di stella, polvere di ghiaccio che col sole diventa visibile. La luce non è un riflesso della luce, non è la luce propria che si emana, che... Ma quindi non si accende, no, assolutamente non prende fuoco, è proprio una bufala in tutti i sensi, è proprio una bufala totale. La grande, uno specchio diciamo uno schermo che comunque, con la luce tutto quello che riguarda l'astronomia è estremamente affascinante, tant'è che io quando facevo il liceo e c'era anche geografia astronomica, ho pensato per vari momenti di diventare anzi devo dire che mi ha anche parlato di culo, perché quando ho fatto la maturità ho portato geografia astronomica, era quando ho fatto la maturità era il ventesimo anniversario del 62? 60. Era il ventesimo anniversario dell'allunaggio e io mi preparai la luna, mi chiesero la luna, che mi hanno salvato perché ero andato abbastanza, non dico malissimo, ma probabilmente non so se avrei passato l'esame di maturità con geografia astronomica, la luna, gli dissi pure le virgole e mi salvai il culo. Mi sarebbe piaciuto, magari in un'altra vita sarei stato un astronomo. Quindi sei del 60, quindi ti ricordi bene la luna. Coetaneo di costui. Te lo ricordo pochi mesi, troppo piccolo. Come no, caspita, certo, l'ho seguita passo passo, momento per momento. Quando c'è stato l'allunaggio? L'allunaggio è stato il era 20 luglio, sì. L'anno era il 69, 69. Allora 69, io l'ho fatto luglio... decimo anniversario, scusate, non il 20 luglio, ho fatto nel 79 la maturità. Quindi sì, era il decimo anniversario dell'allunaggio. Insomma, leggermente c'è, cioè, 62 chiaramente. Può essere interessante che... Tito Stagno. Tito Stagno. Ce l'ha fatta vivere. Che era quello che faceva 9 anni. La cronaca. Sì, 9 anni. Sì. E poi si è sbagliato. Ecco, siamo arrivati. Ah no, non ancora, no, no, un momento, no, aspetta, questo particolare non me lo ricordavo, sì, sì, non, sì, non riusciva, c'era sto collegamento con Houston che poi che ci viene detto e non funziona, che sia stata tutta una bufala, un'invenzione americana, io lo sapevo. Comunque noi da bambini non ci interessava, sì, certo, andavamo a pensare che era una bufala, figurati. Ma era emozionante, sì. Thank you. Sì, scusa, dicevi Marco. No, dicevo che pensare come la stella cometa e stella, diciamo, tout court, è interessante perché sembrerebbe, almeno mi viene in mente, che la cometa sia una stella con una direzione, mentre la stella tout court, diciamo, è sprofondata in questo oceano sia temporale che spaziale, no? Perché una stella non ha una direzione, mentre la cometa è una stella, anche nel il bambino disegna la stella proprio classica con sta codona, quindi ti dà una direzione, è una stella, è come una stella che si sposta, quindi diventa più umana, diventa più vicina a noi, no? Si pone su una, sul tempo lineare e anche su una direzione spaziale che, pur essendo illusioni in realtà, però sono comunque qualcosa che ci rende vicino al nostro modo di... È una stella un po' edulcorata, come dire, una stella... Addomesticata. Esatto, quello è il termine. Quindi la cometa è una stella addomesticata un po', no? Infatti no, anche il Piccolo Principe che si sposta dai pianeti acchiappando le comete per la coda, no? Che lo tirano come fossero delle... E la Via Lattea, tutta la costellazione, una cazzata, ho detto, scusate, tutta la forma della Via Lattea pare che sia stata in mitologia, ovviamente, inventata dai cavalli impazziti di Fetonte, che aveva fatto crollare il carro e i cavalli imbizzarriti non sapevano dove andare, hanno bruciato la Libia, perché se questa è mitologia ovviamente non è certo la realtà, e invece impazziti in direzione in alto, sono talmente impazziti che hanno formato la Via Lattea. Questo è quello che dice la mitologia. Pensate. Enorme Via Lattea che è solo una parte dello spazio. Una minima parte. Una minima parte ed è enorme. Infatti se ci pensiamo perdiamo la cognizione di tutto, chiaramente. Si impazzisce a pensarci. La distanza tra una stella e noi. Sì, si è costretti a fare un'unità di misura. Chissà se mai riusciremo ad arrivare su altre costellazioni, se già ci mettiamo tanti mesi per arrivare soltanto su un altro pianeta. Chissà, magari in futuro, se esisterà ancora l'umanità, se sarà in grado di arrivare ai confini dell'universo veramente, come ipotizzano e vorrebbero tanti astronomi. Esatto. Ecco il desiderio, non la cosa impossibile. Ma diciamo che ce lo domandiamo se l'universo ha un confine o meno, è una teoria, perché non credo che non si possa... Non lo sapremo mai, purtroppo. Non lo so, non sapremo mai. Insomma, desiderio lo vedi come un senso dall'alto verso il basso, io pensavo che fosse il contrario. Ah, cioè? Qualcosa che partisse da dentro e si propagasse, cioè il desiderio nasce da dentro, credo. Per poi dopo essere esternato, realizzato. Sì, però attenzione, seguito. Etimologicamente de, dalle, lo spazio siderale è dove stanno le stelle, capisco. Sì. De non lo sapevo che significava dalle, però... Sì, diciamo che l'etimologia sembrerebbe indicare questa, però questo verso. Chi ci impedisce di pensare che le stelle, in realtà, le vere stelle che intendiamo, siano dentro di noi? Non può. Sono dentro di noi, quindi. Le similitudini con la stella. Ecco. Che cosa ci abbiamo in comune con le stelle? Dentro di noi avremo una marea. L'energia, la luce. Sicuramente l'energia. Sicuramente l'energia, produciamo energia. Esatto. E sicuramente E siamo luminosi quando è positiva e siamo buco nero quando è negativa. Beh, anche noi invece di bruciare l'elio tramite la fusione, eccetera, noi mangiamo delle cose, degli elementi in energia. Quindi comunque, siamo delle piccole stelle. Abbiamo qualcosa in comune, insomma. Direi proprio di sì, insomma. Beh, c'è anche quella posizione quando siamo pure abbastanza criptici, per cui. Quando uno ti insegna a nuotare, c'è quella posizione di stella, no? Quando stai con la faccia in giù, allarghi le braccia. Io mi ricordo che diceva la maestra. Il brevetto è stella marina, infatti. Ecco. Davvero? Sì. Stella marina, probabilmente stai a galla. Stai a galla. Stai a galla, così. Aperto, quello che stai dicendo. L'impersonalismo. Esatto. Eh sì. La testa è la punta più alta. Sì, forse più che a testa in giù, forse a testa in su, così che tiri. Sì, a testa in giù la vedo un po' complicata. Ah, no, perché sai che ti mettono a dorso, no? Ah sì, lì era più il morto di solito, no? Porta a galla. Porta a galla. Sì, però a testa in giù dura poco. Sì, okay. È anche vero. È vero. No, delle strutture, stavo pensando alle ossa, così, non ci sono delle strutture stellari all'interno, basandoci sull'iconografia classica, insomma, non abbiamo ossa particolarmente a forma di stella. Si dice ossi, essi, corretto. Ossi. Non sa che stavo registrando. Le mani, i bracci. I bracci. Parliamo come si deve. Gli ossi, di seppia. Anche letteratura, no? Ah già, Eugenio. Ossi di seppia. Oggi sono andato alla Cappella dei Cappuccini, la conoscete qua a Roma, però così è una divagazione. A Piazza Barberini, dove era una cappella dei frati cappuccini, dove nel 1700 uno di questi frati ha pensato bene di abbellire. A Via Crispi si è andato. A Piazza Barberini proprio. Ah, sono stato. Abbellire queste 6-7 cappelle con tutte ossa. Come che si chiama? Cappella dei Cappuccini. La la cripta. La cripta. Cripta. La cripta, sì, sì. Sono stato nel 2012. E ci ho portato degli amici. Dici, devo portare, guarda. E è una cosa romana. Con le ossa, beh, credo che ci sia già stata. C'è stata. Io ho mai visto. Con le ossa di questi dei cioè, fatto dei di tutto. Ha fatto un sacco di arabeschi, abbellimenti, mi cose. Stella l'hanno fatta? Sì, sì. L'hai vista? Sì. Lampadari. Sì, ma poi tutti alle pareti, tutto no? Tutto pezzo delle ossa. Sì, tutto ma non sono presenti di me, non sono mai andato. Mai. Invece, ce ne sono c'è più di una di credo, anche in Sicilia ce n'è una. Ci possiamo riandare? Sì. Napoli pure sembra che sotto suolo si abbia questa cosa, perché prima quando uno moriva lo buttavano in giro. Comunque loro passavano il tempo a pulire queste ossa e a disporle. In maniera anche a forma di stella. Era un memento mori, un'attività ambientale proprio. Allora ecco, magari le ossa non spirituale. Sono a forma di stella, però le si possono spiazzare nello spazio a forma di stella, no? Certo. Dei, io ci sono stata delle tibie o dei femori, no? Composti in modo che crei la figura della stella. Certo, certo. L'osso che penso che possa assomigliare più alla stella sia lo sterno. Lo sterno. Al centro e magari sì. Perché si irradiano ste costole. Ste costole. Certo. Siamo in queste giornate qui a questi momenti. In realtà la stella poi non ha una forma. Beh, attenzione, allora sai che questo si dice il plesso solare, no? Esatto, anch'io ci sono qua, no? Quindi effettivamente al centro, no? Delle costole. Solare uguale a stellare. Solare. Perché essendo una stella. Sì, esatto. Tra l'altro è un punto vitale. Preciso, sì, è vero. È un punto vitale. Interessante, perché stavo riflettendo sulla questa proprietà radianti, no, delle stelle, e la forma cancerosa, per esempio, invece è stato scelto, e anche questa di solito si sviluppa, è una cosa che parte da un asse di solito, no? E ci sono queste varie peduncoli che si allargano sempre di più, no? Cattivissimi, no? Che te mangiano tutto. E, però lì si è usato l'immagine del cancro, cioè di questo animale, più che usare il paragone stellare, che forse potrebbe anche essere appropriato, ma forse era ci voleva qualcosa di più cattivo, di più forse, sì, appunto, di perché più, insomma dici che ho una stella, insomma, rischi di essere contento. Ho una stella, che culo. Invece io riflettevo su questo romanzo famoso di Conin, no? Sul Regard des Étoiles, tradotto in italiano, e le stelle stanno a guardare, dove lui scrive questa storia drammatica, dove il popolo è sconfitto dalla classe dirigente, i minatori che muoiono, sfruttati in Inghilterra, no? E tutto questo sotto lo sguardo delle stelle, quindi qui c'è proprio una separazione tra il mondo reale e la sua tragicità e le stelle che non possono far nulla, solo guardare. e che compatiscono ma non possono intervenire, diciamo. Non possono fare nulla, perché comunque è per un romanzo pessimista. L'altro giorno, l'ultima volta hai citato Kafka, adesso lo cito io. Kafka diceva: ci vuole ben qualcuno che stia sveglio la notte. Ed era lui, no? Che vegliava su tutti i dormienti. Ecco, forse le stelle sono queste, no? Sono queste. Stanno sveglie quando tutti dormono. E nulla è più facile dell'ispirazione notturna per creare, no? Sì. Quando c'è tutto questo pace, silenzio, questo cosa ferma, è accogliente, no? Anzi, si dice, a me funziona, si dice che appunto al tramonto, all'imbrunire, così c'è un primo momento di paura, di, no, di, da, di tremore, di tremore, di qualcosa. Poi invece arriva la notte, no? Ecco, e a quel punto fai il salto. Diventi un leone. Fai quel salto lì, insomma, no? Certo. Interessante, chissà se l'inquinamento luminoso che oggi è, insomma, copre molta parte del pianeta ci ha allontanato da questi oggetti che forse una volta erano più vicini, cioè, ci avevi a che fare un po' tutte le notti, mentre adesso ammirare le stelle, non le vedi. E forse c'è una sottile nostalgia di questo corpo celeste che ci parla un po' meno. Io sento molta meraviglia quando la gente si allontana, dice: vedi come si vedono, sembrano quasi stupiti di vederle, no? Ma perché pensa in posti più oscuri, perché qua c'è troppa luce artificiale. Sì, cioè, no, quello è e poi c'è la televisione, il cinema, le insegne, troppo passa di tutto in città, no? Non è adatta alla contemplazione della città, ma al divertissement. È come il supermercato alla, di prima. Come dire, all'intrattenimento. La città ti fa scegliere, distoglie dal desiderio. Certo. No, quindi anche quando, forse questo, no? Insomma, uno dei poemi più importanti della nostra letteratura finisce le sue cantite con la parola stelle, no? Non è mica un caso. Prima che riesce a rivederle, no? In varie situazioni, certo. Però adesso ci sono un po' più lontane, forse ci mancano, forse per quello che le replichiamo molto nei nostri oggetti, ci mancano un po'. E nei nostri miti, no? Le stelle, no? Del cinema, stelle, no? Nei nostri miti, no? La star, ecco, la star. Sì, creiamo gli star system perché siamo lontani. Ma anche l'astrologia è uno star system alla fine, no? Cioè la tendenza, vabbè, anche se con due direzioni diverse. Sì, certo. L'istinto di razionalizzare l'ignoto. Di dare una spiegazione a quello che ci fa paura, no? E quindi abbiamo creato, che per un astronomo, l'astrologo come è diceva questo. Lui, no? La galassia è nata per quel motivo lì, perché è l'istinto di dare una spiegazione alle cose. Quando non c'era una scienza, i telescopi che potevano dare una spiegazione più reale. Stati in un luogo così dove c'è il grande telescopio, dell'osservatorio? Io sì, sono in Sardegna, ci sono stato. Io da bambino una volta in montagna, sai dove? Forse ad Asiago, un posto così, mi sembra. Ero bambino, ma sono rimasto affascinato. Tanto appunto si apre il tetto, no? Perché c'è una feritoia, vedi sta roba, e poi tutto sto canocchialone molto grande, insomma, e poi appunto, no, ecco, adesso è posizionato, guarda dentro. Allora da bambino vai lì con l'occhio, capisci niente. Però tutta sta macchina, sta cosa, e questi adulti che fanno questo gioco crea molta ignoto, appunto, molta cosa diversa, altro, no? Che dici, ma che roba strana. E invece una delle più forti emozioni che ho avuto nella mia vita è stata quando mi sono trovato per caso nel 1996, se non sbaglio, in montagna, sul passo Rolle, un po' più a valle del passo Rolle, proprio San Martino stesso, di Castrozza. Dalla parte opposta, dall'altra parte, a Val di Fiemme. Andai per prenotare un appartamento per l'estate, perché ho un bambino piccolo, a me piace la montagna, E c'era la cometa di Halley in quel periodo. Non ricordo se era quella di Halley o la cometa degli Yakutake, insomma, una delle due. E arrivare lassù io mi aspettavo di vedere, sì, un bello spettacolo, invece quello che vidi è stato qualcosa che non dimenticherò mai per tutta la vita. E l'unico problema è che ero solo. Quindi non avevo modo di condividerlo con nessuno. La cometa, È rimasta un'esperienza interiore. La cometa era vista a quelle quote, quasi 2000 metri, era una delle emozioni più forti della striscia di luce. Ma che occupava metà firmamento, cioè una cosa pazzesca, pazzesco. Io rimasi, io immaginavo uno spettacolo piacevole, ma c'avevo una macchina fotografica appresso, ma non sono riuscito a combinare un tubo perché è una fotografia difficilissima da fare. Cioè ci vuole tutta una tecnica particolare che io non conoscevo Certo, praticamente. l'esposizione, certo. Sì, no, tempi di esposizione lunghi, ma poi dei filtri particolari. Insomma, non è semplice fare la Sì, con la fotografia poi illuminare. astronomica. E comunque è stato meraviglioso. Vabbè, ci saranno delle immagini comunque fatte da Sì, certo, ormai quante ne istituzionali. vuoi, chiaramente, sono tante, però Andiamola a vedersela così vedere, in uno spettacolo, in un cielo, che poi abbiamo anche la fortuna che il tempo era buono, perché Certo. chiaramente se era nuvoloso non Certo. vedevi niente. Arrivai Certo. su, è una cosa Andiamola a imbarazzante vedere. Beh, eri per quanto caduto a è metà stato. strada, quindi non c'erano luci, non Non c'era c'era. nulla, ovviamente, perché era sotto il passo rolle, intorno ai 2000 metri. C'era un'altra macchina di persone che però non conoscevo, che si facevano gli affari loro. A me mi è preso un attacco di telefonite e ho cominciato a telefonare a destra e a manca, perché ero solo in montagna, per Sì, poterlo avevi bisogno di condividere, perché le condividere. cose belle sono ancora più belle se sono condivise. Sì, Da certo. soli sono belle comunque, però ce le godiamo a Sì, metà. ma dà l'emozione che ti esplode dentro, ecco, Sì. E irradiamo volevi essere l'emozione. stella, insomma. Come quando ti chiamai che Irradiamo stavano girando l'emozione. il film. No, quando stavo girando il film Ah, James sì. Bond l'anno scorso sul Lungotevere, no, chi la chiamai, Ah, mi diceva quello che descrivevo stava tutta la pericoloso. scena. Devo Sì, perché c'era ragazzi, la l'elicottero che condivisione è sganciava una una delle bomba cose. sotto Ponte Sì, vicino No, Ponte Sì. perché io ti dissi Ho la visto mattina. tutto, bellissimo. Sì, io ti dissi la mattina che c'era il camion, ho fatto vai a vedere, guarda che devono girare, che avevano È un tutto mese che allestito. stavano. Che infatti l'avevamo visto prima, andavamo usciti. Dice, no, ma sento. E mi sa che sì, è stato. Ed è andato. È uscito. Sì, volevo ritornare dove un attimo al acceso. discorso che facevi prima, che noi siamo Quale? vecchi rispetto ai nostri Sì, antenati. sì. Non In c'è che la mitologia senso? dei buchi neri, perché Spiegamelo, è una scoperta recente. ecco. Quindi l'uomo, negli anni, adesso non so quando è stato scoperto il buco, negli anni 60, 50, o, insomma, è molto recente. Non è dedito alla mitologia, ma quanto più alla scienza rispetto ai nostri antenati, le vecchie generazioni, no? Cioè, Abbiamo perso questa capacità l'abbiamo persa di immaginare. perché la tecnologia e la scienza hanno fatto molti progressi. Prima era l'unico modo di spiegare la natura, creando anche una mitologia. Cioè, Beh, non c'era non abbiamo il un'attività mitologica noi. telefono. Cioè, i miti quali sono oggi? Capitan Findus, le merendine, no? E gli eroi del cinema. No, vabbè, diciamo che prima non Usato c'era. impropriamente come termine mito, però La storia era tramandata la di una mitologia parola. era Del cinema, perché ormai racconto. sono Parole, quelli della film. televisione che fanno il cinema. Quindi sono proprio quelli della televisione. Capitan Findus è giusto, è più giusto di tutti, Sì. secondo me, dei miti nostri. Certo. Sì. Capitan Tra l'altro, Findus. Findus, se lo spezzi, fai in inglese Mitico. find us, trovaci, è una cosa È vero, pazzesca. find Fa us. paura. I Trovaci. Simpson, ogni cosa Trovaci. mitica, il linguaggio giovanile, no? E se il buco nero fosse stato scoperto Sì. 3000 anni fa, avremmo una mitologia complementare alla stella, no? Cioè Ok. Una avrebbero storia. raccontato storie di dei Certo. o semidei, come Le diceva lui, Moerdi, gli altri, Fetonte, tutto certo. quel cavo del sole, tutte quelle Esatto, storie sì. dei miti dell'Olimpo, no? I dei Avrebbe fatto il che contrario, no? avrebbero Sarebbe interagito stato con questo buco nero Certo. e chissà cosa ci avrebbero Ma detto, dunque, delle noi cose abbiamo bellissime, probabilmente. un altro che non è una stella, un altro astro, insomma, il pianeta della Terra che è la Luna, no? Il satellite della Terra che è la Luna, Satellite. che è illuminata dal Sole Sole, la e luce, riflette la bianca. luce del Sole. Però, insomma, ecco, È appunto. un miserabile sasso. Va bene, è un miserabile sasso che però è stato vissuto E dalla poi nostra, dai non nostri è così antenati. miserabile. Anche noi, Ecco, però, siamo. Ecco, non è così miserabile. Ci influenza la grande. Esatto, molto, anche le maree. Le maree. Sposta al mare. Oh. Anzi, quello sembra scientificamente più dimostrato che ci influenza rispetto alle stelle. Ecco, e poi proprio veramente ce l'abbiamo, appunto, la conosciamo, ci siamo andati, la conosciamo, ne conosciamo. Forse. No, ci siamo andati. Beh, anche sulla Luna si potrebbe fare una serata. Beh, ne conosciamo la materia. No, per dire che quell'astro, quello pseudo astro lì che è invece ha una mitologia, appunto il lato oscuro della Luna, no? Sì. La parte, quindi lì abbiamo una mitologia del lato luminoso e del lato scuro, no? Si potrebbe leggere, certo. Ecco, sì. Quindi appunto, siccome è più antico, lì abbiamo costruito... Sì, mitologia, letteratura, siamo, poesia, Madonna, tutto. No? Il buco nero è troppo pallida, recente. No, la Luna, no, sì. Potrebbe quindi prestarsi, no? La mitologia sulla Luna, potrebbe aiutarci a immaginare, no? Una mitologia anche del buco nero. Beh, sì, è vero. Mm. Sì, sì. La parte scura. Infatti, gli sforzi che facevano gli antichi, anche perché la Luna, essendo l'astro, diciamo, il corpo celeste più vicino, si accorgevano che aveva delle macchie. Com'è possibile che un corpo fatto di etere, quindi di questa materia purissima, comporti delle macchie? No? E quindi già lì c'era un dubbio, cioè era inquietante. Poi la Luna che muta forma, no? Aspetta, è un astro, è un corpo celeste particolare, forse il più vicino a noi, forse il più umano, forse più simile a noi, insomma, no? Quello che siamo riusciti ad antropomorfizzare meglio la Luna. Sì. L'uomo ha antropomorfizzato tutto alla fine, sì, ma probabilmente anche il coniglio conigliizza tutto, anche cioè, la parte probabilmente sì, tutto. Sì, esatto, perché anche la prospettiva è la storia cosmo e microcosmo, no? Macrocosmo e microcosmo, no? Alla fine nell'uomo c'è tutto quello che c'è nell'universo. Certo. Tutta la dinamica è simile, molto simile. Sì, poi se stringi essere umani o essere elefanti, sono solo due prospettive diverse. Sì, appunto. E diciamo che noi siamo capaci di avere solo la nostra prospettiva. Spesso. Anche se ma no, cioè noi possiamo immaginare altre prospettive, certo, ma certo. Conosciamo solo la nostra. Sì. Esperienza, non è sì. Che questo siamo. Certo. Per cui è giustissimo che il coniglio coniglizzi tutto, l'uomo umanizza tutto. Certo, questo sappiamo fare. No? Sì. No, una domanda che mi veniva, allora il Sole è una delle stelle più piccoline, noi, però ha il vantaggio che è la nostra più vicina. Esatto. Più vicina. È interessante come il disegno del Sole è molto diverso dalla stella, pur essendo essendo esattamente la stessa cosa. Sì. Cioè io faccio un cerchio, tutti i raggi intorno, sì, ecco qua sì. Il Sole. La stella invece, no, il nucleo sembra non vederlo, sì. E disegno questa cosa. È curioso, perché forse dalla stessa prospettiva. Esatto, lì forse rivela perché una prospettiva. Perché tu quando sei così lontano vedi solo le punte che si illuminano, non ce la fai, quella vicino... Sì. Lo vedi al tramonto, vedi anche all'alba. È un qualcosa che diverso. Il Sole riusciamo quasi a sentirlo raggio per raggio, diciamo, no? Sì. Sembrerebbe. Sì. E c'è la stella. La differenza sostanziale sta che il Sole lo vediamo di giorno e la stella è di notte. Anche questa è vera. Dove praticamente non c'è luce, c'è la stella, dove c'è luce c'è il Sole. Sì. Non solo, ma il Sole non lo guardiamo perché ci accechiamo, ce lo guardiamo. Beh, certo, a meno che non sia al tramonto. Sì, mentre la stella la puoi fissare, le puoi contare. Al buio le conti. Più o meno, aspetti che è cadono. È una questione di distanza. Di distanza. Sì, è proprio una prospettiva. Attenzione, diurna o diurna e notturna, interessantissimo. Quindi in realtà... Non possono neanche convivere, nel senso che cioè il Sole è una stella diurna, Sì. Ma è l'unica stella diurna. Ma no, perché essendo loro distanti, esatto, è vicino. No, se loro quelle fossero vicine, indipendentemente da dove stanno. No, no, ma vabbè, ma il Sole è la stella, è l'unica, è, sì, no, d'accordo, ci sono anche ovviamente te l'appoggio. Ma il concetto è giusto. Ma il Sole non è notturno. No. Ecco, questo è indubbio. È indubbio. È indubbio. Così come è l'unica stella diurna. Il fatto che solo diurna. Sì, ma il fatto che le altre stelle, se fossero vicine, pure loro sarebbero diurne. Alcune, ma il Sole è l'unica stella che è solo diurna. Diurna, esatto. Per noi sì, è quella che ci dà il giorno. Che ci dà la luce. Cioè, è diurna perché è la Terra che si gira da sì, sì, ma è quella che ci dà la distinzione. Se tu vuoi vivere di giorno, basta che giri. E la notte. Segui mentre tutte le altre stelle, nessuna solo ci dà la stessa distinzione. Esatto. È solo il Sole che ci dà l'unica stella. L'unica stella diurna è il Sole. Certo. Ma quindi, però è vero pure che tutte le altre stelle sono notturne. Sono sia diurne che notturne, capitano il cielo. È che non le vedi. Ci sono, ma non le vedi. Non le vedi perché il sole illumina la volta celeste, non ce le fa vedere. Quando il sole si oscura per l'elisse, per l'eclisse, le vedi le stelle? Ma... Sto pensando quando il sole si oscura per l'eclissi. Il sole fa parte dell'eclissi, cioè il sole crea l'eclissi. Cioè, quindi comunque le stelle... Che comunque sudato, c'entra no? con l'eclissi. Sì, subisce l'eclissi. Sì, sì, comunque penso di sì. Si vedono le stelle. Qualcosa lì riappaiono anche di giorno. È l'unico momento. Si abbassa un po' la luce. Ogni tanto escono le stelle di giorno. Sai che quando c'è, ti ricordi, quando c'è un'eclissi del sole, c'è una ventata di fresco di cose che capita d'estate, no? Sì. Perché proprio va giù la temperatura. Certo. Sì. Pochi minuti e si raffredda. E poi dopo ritorna su. Sì. Sì, lo stesso venticello che spira sempre all'alba è proprio il sole che ha scavallato, no? Ecco, quindi come si può dire? Quindi ci fa assaggiare quella roba che dicevi te, no? Del sole. Pensate se il sole non ci fosse, andrebbe immediatamente giù la temperatura. Esatto. Guarda che forse hai degli ospiti. Chi sono? Interessante. Però in effetti la stella è rappresentata come un asterisco. Mentre il sole è bello giallo, con i raggi. Esatto, con tanti raggi, no? Da bambini, no? Si giocava sempre a rimettere sempre di più. Pseudo filosofica. Siamo alla sera. Fine. Ciao. Anna Maria, una mia amica. Donatella. E qui. Benvenuta. Grazie. Ci stavamo parlando di delle stelle, quindi. E siete arrivate voi. Esatto. Il lato positivo della parola. Sì. Quando esatto. Darvi... Le evocate. Ah, qui si può fumare. Stelle filanti, non abbiamo detto niente. Woo-hoo!